da chi, come dei fariti, ma sta donna, di rosa ne ha fatti, di rosa ne ha fatti, di rosa ne ha fatto bello sciarpino. No bello giardini, di rosne a fanno bello giardini, torni di pindorni lei, torni di pindorni lei, torni di pindorni lei, innamorati. Di lei innamorati, pindorni di pindorni lei, innamorati, di preta preziosi e ori. Metà c'è la cavanna, metà c'è la cavanna, metà c'è la cavanna, brava Mundani. No, brava Mundani, metti su la cavanna, brava Mundani. E ia ia fa corri l'acqua, e ia ia fa corri l'acqua, e ia ia fa corri l'acqua, sorgenti. L'acqua sorge di vi, e ia ia fa corri l'acqua, sorge di vi, coppa se la mette na, coppa se la mette na, coppa se la mette na, scendilo a cantari. E na, scendilo a cantari. Dopo sulla merda nasce il tuo accandari, cantava e repusava e cantava e repusava, cantava e repusava bella vita lì. Cantava bella dice lì, cantava e repusava bella dice lì. A vi voi addivinata, vi voi so addivinata, vi voi addivinata, nascella. Vi fare meno sonna, canta pur bella Madonna, m'na fatta innamorata, canta pur e non parla. Si bella tu la gira, innamora, non la faccia, m'na fatta innamorata, canta pur e non parla. M'na fatta innamorata, canta pur e non parla. La camma pure lo parla, una faccia innamorata, la camma pure lo parla, si bella tranciva innamorata, ma faceva, voglio lì, voglio lì, voglio no. E sta cagnato dopo da me, mamma da rosa, pure a te, e mamma da lontana lo dice pure a te, amici, sta ingagnato che pure a me, e mamma da lontana lo dice pure a te, e mamma da lontana lo dice pure a te, amici, sta ingagnato che pure a me.